gli speciali di Radio 24. E dunque si riparte dopo il voto con un no alla riforma costituzionale che più chiaro di così non poteva essere. Un saluto, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. E buongiorno anche da Alessio Maurizi. I dati sono definitivi, ve li abbiamo raccontati da questa mattina, ma sono apparsi subito chiari. Hanno votato 7 italiani su 10 aventi diritto, ha vinto il no con il 60%, anche se poi dei distinguo vanno fatti come sempre tra città e città, tra regione e regione, ma il dato è sicuramente schiacciante. La giornata di oggi allora riparte guardando i mercati, riparte guardando a Palazzo Chigi e al Colle, perché Matteo Renzi ha già deciso che lascerà. Ci aspettano ore intense, perché sicuramente è stato detto una grande prova di democrazia, il 65% degli italiani che vanno a votare su questo referendum. Non era facile, era un referendum tecnico, bisognava informarsi, si è scelto sul merito sicuramente, ma si è scelto anche di pancia contro, a favore del governo Renzi, e però guardando anche le analisi dei risultati elettorali si è scelto forse anche avendo alle spalle una crisi sociale, una frattura forse più profonda di quello che ci si poteva aspettare, sicuramente di quello che si poteva aspettare Renzi, con un 80% di votanti contro la sua riforma da parte dell'elettorato più giovanile. Quindi insomma le questioni aperte ci sono, dimissioni. Renzi si dimette, ma si dimetterà immediatamente o resterà in carica il tempo necessario per il disbrigo della legge di stabilità, una riforma elettorale che sembra essere necessaria, perché attualmente, lo ricordiamo, abbiamo due sistemi elettorali diversi, l'Italicum alla Camera e un sistema proporzionale puro al Senato, e questa non è una garanzia di successo. Tra l'altro un'ultima cosa che va ricordata subito è questa, la Corte Costituzionale sta per esaminare se il Parlamento non prenderà una iniziativa di riforma della legge elettorale, sta per esaminare l'Italicum e potrebbe bocciarne una parte, quella sul premio di maggioranza o quella sulla soglia di sbarramento. Insomma, quindi potremmo andare con una legge che alla fine non deciderà la politica. Questi sono i punti, questo è il quadro, questi i numeri. La giornata di oggi, intanto, cosa si apre, cosa ci attende? Aspetta nella giornata di oggi. Alessandra Schepisi è già pronta a Roma. Alessandra, fonti del Quirinale, fonti di Palazzo Chigi, cosa dicono? Sì, buongiorno, dicono che alle 16:30, questo dovrebbe essere l'orario dell'ultimo Consiglio dei Ministri, Renzi dunque a quell'ora congederà il governo annunciando formalmente le sue dimissioni, poi subito dopo, quindi intorno alle 17, salirà al Colle per rimettere l'incarico nelle mani del capo dello Stato. Queste le tappe. Mattarella poi, come sappiamo, in realtà sta già riflettendo sulle possibili nuove soluzioni, con alcuni punti fermi: la legge di stabilità che deve essere portata a termine, la legge elettorale che deve essere riscritta. Altra considerazione sulla quale Mattarella baserà le sue scelte è il fatto che esiste una maggioranza in Parlamento che è quella di fatto del Partito Democratico, quindi all'interno di questo partito si cominceranno a cercare soluzioni in quest'ottica. Altro appuntamento importante è quello di domani, la direzione del PD durante la quale Renzi potrebbe forse rassegnare anche le sue dimissioni da segretario. E a quel punto sarebbe resa dei conti su tutti i fronti. Grazie ad Alessandra Schepisi, però resta con noi lì da Roma. Resa dei conti per quanto riguarda il fronte del governo, resa dei conti per quanto riguarda il suo partito, ma la legge che era stata approntata e che gli italiani hanno bocciato, oltre a Maria Elena Boschi, è anche in qualche modo un'altra madre, almeno per quanto ha riguardato uno dei voti decisivi, il cammino parlamentare al Senato. E allora è con noi Anna Finocchiaro, senatrice del PD. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ben trovati. Peccato, dice questa mattina la Boschi su Facebook, avevamo immaginato un altro risveglio, istituzioni più semplici in Italia, paese più forte in Europa. In qualche modo, dicevamo anche lei, un po' madre di questa riforma, se l'aspettava questo voto? Purtroppo sì, me l'aspettavo perché ho fatto una campagna elettorale molto serrata e dunque ho avuto modo di capire qual era l'aria che tirasse nel paese, poi una certa esperienza, diciamo. Il referendum è di per sé uno strumento positivo e la trasformazione della campagna elettorale in una campagna politica e non sul merito della riforma, peraltro anche abbastanza, diciamo, difficile da da comprendere, da spiegare, tutto questo giocava per un risultato che immaginavo fosse quello che poi si è verificato. E pensa anche lei che, oltre al giudizio sul merito della riforma, oltre a essersi schierati di pancia contro o a favore del governo, e in questo caso naturalmente è una bocciatura del governo Renzi, ma ci sia anche questa frattura sociale che forse voi che avete portato avanti la riforma con questa campagna elettorale forse potete avere in qualche modo sottovalutato o non colto appieno la crisi sociale, l'80% di votanti tra i giovani tra i 18 e i 30 anni che votano contro questa riforma che viene portata avanti dal rottamatore per eccellenza. C'era da aspettarselo questo aspetto del no? Questo l'avevo colto, che cioè ci fosse un po', perché proprio della, diciamo, della fascia di età, no? L'essere oppositori, ed è giusto che sia così perché è una fase anche giusta della crescita, secondo me, dell'acquisizione di coscienza civile e politica, ma che ci fosse una fascia giovanile ostile alla riforma, questo sì, io l'avevo colto, ma non solo io, tanti che con me avevano oppositori alla riforma di per sé, oppositori ad una riforma di per sé suona strano. Sì, suona strano, ma lei la deve collocare nel nostro paese e deve anche strettamente, è un paese teso alla conservazione, nobilitata, ma alla conservazione, e nobilitata in questo senso, perché le ragioni che venivano usate erano ragioni di conservazione del pianto costituzionale voluto dai costituenti, quindi diciamo ragioni nobili, non certo ragioni volgari, e poi, come dicevo, una campagna elettorale fortemente politicizzata certamente ha fatto il resto. Però non bisogna, io credo che ci sia un errore circolante in questo periodo. Ho visto ieri con le dichiarazioni a botta calda, diciamo così, fatte dai rappresentanti politici del fronte del no. Stiamo attenti che questo 60% non è tutto Grillo, non è tutto Salvini o Meloni. Allora io le faccio ascoltare un suo compagno di partito. Questo è quello che ha detto D'Alema. Beh, no, ci ha fatto contenti. non so. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima, diciamo. Pure vinto il derby, insomma, veramente era difficile. Una giornata perfetta. Forse l'aspetto più sprezzante è quando D'Alema paragona il derby con la riforma costituzionale. Che dice Finocchiaro? Ma guardi, io penso che per alcuni dei protagonisti del fronte del no, questo risultato e le immediate dimissioni, prima ancora di avere risultati definitivi del Presidente del Consiglio, magari potrebbero significare due cose. La prima, mi pare ovvio che il pericolo di deriva autoritaria con un premier che si dimette prima dei risultati definitivi, insomma, è un po' difficile. Ci siamo rimasti abbastanza lontani da quella deriva autoritaria, questo sì. Esatto, questo mi pare, diciamo, un primo dato. Così secondo, come anche si potrebbe dire che i famosi poteri forti, che sicuramente esistono da qualche parte, però in questo caso sono risultati non così forti. Sono risultati poteri deboli, a me pare che insomma ci sia anche un elemento di sottovalutazione molto grave, anche da parte di Massimo D'Alema, della situazione di stabilità politica nel quale il Paese precipita, in un momento complicato in cui... Con delle scadenze vicine? Con scadenze vicine, in un momento in cui i populismi, xenofobia di vario genere e tipo premono contro quella che è una visione di una democrazia moderna e inclusiva. Ecco, Matteo Renzi si è subito assunto la responsabilità di questa sconfitta, ha detto che si dimette, è già dimissionario da Presidente del Consiglio. Però che succede all'interno del Partito Democratico? C'è un suo collega di partito, Boccia, che questa mattina dai microfoni di Radio 24 chiede un congresso a gennaio rapidamente, nel quale Renzi vada dimissionario da segretario del Partito Democratico. Lei condivide questa posizione? Guardi, io penso che se non si riapre una discussione vera dentro al partito sul segretario, piuttosto che sul programma, piuttosto che sulla qualità e modalità delle relazioni politiche dentro di noi, noi non abbiamo solo perso un'occasione di governo, abbiamo perso anche la possibilità di tenere in piedi come forza democratica e organizzata l'unico partito vero del paese. Quindi tutto quello che va nella direzione di ridare forza e il più possibile convergenza sul partito, la sua organizzazione, il suo programma e le sue modalità di democrazia interna è non benvenuto, molto di più sarebbe dovuto accadere prima. A me pare però che in questo momento, siccome i conti si stanno facendo appunto sul pallottoliere, bisognerebbe scendere a farli sul campo brutale del paese, delle sue condizioni, della sua instabilità. Pallottoliere quale, nel senso? Con quale legge si va? Con la quale si andrà a votare? Questa, qual è? Perché guardi, questa è una bella il pallottoliere domanda. Cambia? Questa è una bellissima domanda, perché ovviamente il Movimento 5 Stelle, che ha fatto un'opposizione molto strenua all'Italicum, ora lo vuole. Altri vogliono cambiare la legge elettorale, ma non si capisce come e quando. Nessuno, perché i conti sono diversi. Certo, nessuno ha un'idea di come si dovrà fare la legge per il Senato, non mi pare, perché dipende da che modello metti insieme, e in ogni caso io mi auguro che quello che non venga meno è il requisito di una legge che sia in grado di dare un minimo di stabilità al paese. Vedo aleggiare, questo mi pare che sia uno degli scenari possibili, un desiderio di ritorno al proporzionale, quindi di una larga coalizione che poi alla fine è al passato. Senatrice Finocchiaro, c'è qualcosa che non rifarebbe in quell'accordo al Senato con cui è passato il testo su cui abbiamo votato? No, anche perché l'ultima parte del lavoro parlamentare, come peraltro in qualche modo mi è stato, non dico rimproverato, ma insomma è stato sottolineato, è stato il fatto che il testo ha recato profondamente il segno dell'accoglimento delle proposte della minoranza del PD sul Presidente della Repubblica, sugli strumenti di partecipazione diretta, sull'elezione dei consiglieri regionali senatori. Senta, voglio tornare però un attimo, perché naturalmente è lo scenario più importante, quello della legge elettorale, perché le opposizioni chiedono che si vada al voto subito, lo stesso Renzi fa capire di non essere contrario, si dimette. Cos'altro di più di un governo dimissionario che non apra al ritorno alle urne? Però l'abbiamo detto, si potrebbe anche andare a votare forse con questo sistema elettorale, ma con una legge alla Camera e una legge al Senato diverse, una legge maggioritaria alla Camera e proporzionale al Senato, rischia di essere un patatrac. Il Partito Democratico in questo momento in Parlamento ha comunque ancora la golden share, il partito fin qua guidato da Renzi, ce l'ha alla Camera. Quindi condivide quello che ha detto per esempio ieri Brunetta di Forza Italia, sta al PD adesso prendere l'iniziativa parlamentare per un governo di scopo, un governo di passaggio, comunque una fase di transizione nella quale l'essenza sia una riforma della legge elettorale. Tocca al PD, tocca a voi farlo. Guardi, le dico subito che l'affermazione di Renzi nel suo discorso di commento ai risultati elettorali, nella parte in cui ha ributtato la palla, diciamo, nel campo avverso, dicendo adesso fate voi, ha svelato un po' lo spirito d'apprendista stregone di molti rappresentanti del no. Brunetta infatti ha subito detto no, non tocca a noi, tocca al PD assumersi la responsabilità. È un modo un po', diciamo, bizzarro di affrontare la questione, e svela, mi permetto di dire, che coloro i quali hanno combattuto questa battaglia per il no forse un'idea per il dopo non ce l'hanno. Però allora ci lascia così in sospeso. A chi tocca? Tocca, non credo che possa toccare a Mattarella dare un'indicazione di questo tipo. Tocca al Parlamento. Io mi chiedo come si farà con l'opposizione di un gruppo come quello del Movimento 5 Stelle, forte alla Camera e forte al Senato, che invece vuole restare all'Italicum e acconciare qualcosa per la legge elettorale del Senato. Con il PD che aveva sostenuto l'Italia, come poi, come lei sa, era tornato a discutere nel gruppo di lavoro nel quale è stato presente Gianni Cuperlo su un'ipotesi che potesse essere diciamo più consona a quelle che erano le aspirazioni e i desideri e la volontà della minoranza. Non so, ci abbiamo messo 9 anni per fare l'Italia, come è dovuto intervenire la Corte Costituzionale. E adesso lo faremo. Adesso vedremo. È nelle mani del Parlamento, ma a dire nelle mani del Parlamento significa anche dire nelle mani della responsabilità delle forze politiche che, al di là del PD, adesso sono chiamate ad assumersi la responsabilità della stabilità del Paese. Sì. Grazie ad Anna Finocchiaro, allora senatrice del PD. Grazie per essere stata con noi. Allora, gli sms stanno arrivando, 349-238-6666, non ve l'abbiamo ricordato, ma ovviamente sempre così, un ascoltatore sa già tutto. La mia previsione, Mattarella indicherà D'Alema, è del PD, ex presidente del Consiglio. Non credo, andremo avanti. D'Alema non è neanche sembra molto difficile. Allora, buttata la palla dalla Finocchiaro di nuovo nel campo, in qualche modo avversario, lo facciamo anche noi. Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, tocca a voi, diceva la Finocchiaro, che si fa ora? Allora, dire tocca a noi quando chi ha creato un caos istituzionale enorme sono proprio loro è una bella battuta, nel senso che io faccio parte proprio di quella commissione dove è passato l'Italia come la riforma costituzionale, e abbiamo detto in tutti i modi che le case si costruiscono partendo dalle fondamenta, e le fondamenta istituzionali, se loro volevano cambiare, hanno fallito evidentemente con la loro costituzione pessima, però si partiva dall'assetto istituzionale e dopo si uniformava una legge elettorale a questo assetto istituzionale. Loro hanno voluto fare il contrario e ora ci troviamo in questa condizione. Queste sono persone che non hanno alcuna credibilità, l'hanno fatto pensando esclusivamente a loro stessi, con l'arroganza e le dico anche il livore nei confronti di chi non era d'accordo con loro. Di conseguenza, guardi, se c'è un ente, chiamiamolo così, che dovrà modificare l'Italicum grazie ai ricorsi fatti da un pool straordinario di avvocati sottoscritti anche dal sottoscritto e dal Movimento 5 Stelle, questa è la Corte Costituzionale, che probabilmente a gennaio si esprimerà sui nostri eccezioni di incostituzionalità, renderà quella schifosa legge elettorale fatta da Renzi e dalla Finocchiaro, che ha parlato poco fa, l'Italia come costituzionale, e dopo si potrà andare a votare. Se non sarà la legge elettorale del Senato perfettamente compatibile con quella che uscirà dalla Corte Costituzionale relativa alla Camera, si faranno al Senato dei correttivi, ma dobbiamo evitare, perché questo è il senso del voto di ieri, che i cittadini sopportino ancora queste persone al comando di un paese quando gli hanno chiaramente detto che avete fallito. Perché se c'è una cosa certa è che il Partito Democratico ora che cosa vorrà fare? Forte della sua maggioranza, vorrà ristrutturarsi, vorrà ripartire e prenderà tutto il tempo necessario, sto parlando primavera 2018, fine legislatura, per andare a votare e magari per prendersi anche le pensioni d'oro, perché ricordiamo 4 anni, 6 mesi, 1 giorno e siamo autunno 2017, sì. I parlamentari maturano la pensione d'oro, noi faremo di tutto. Ce lo segniamo, però, è come data, però voglio, non è, voglio fare una domanda, voglio rovesciare un po' il suo argomento, perché lei dice A questo punto la Corte Costituzionale deve esaminare i ricorsi contro l'Italicum sul premio di maggioranza, sulla soglia di sbarramento. Sono credo 4 ricorsi sollevati in 4 tribunali di tutta Italia. Voi pure avete, diciamo, contribuito a fare questi ricorsi, a creare questa situazione di vaglio di costituzionalità. Però io le dico, vale anche l'argomento contrario, cioè se il Parlamento prende un'iniziativa di riforma della legge costituzionale, sappiamo che per consuetudine di riforma della legge elettorale, sappiamo che per consuetudine la Corte sospende, come è stato fino adesso, l'esame dei ricorsi. Quindi non sarebbe il più logico, lo chiedo a lei che è un parlamentare, che parla ai cittadini che hanno votato il Parlamento, che sia proprio il Parlamento la sede nella quale si prende una iniziativa di riforma della legge elettorale, ha preso atto della situazione a cui siamo arrivati, anziché aspettare che sia la Corte a fare delle modifiche che poi bisogna vedere se saranno compatibili con quella del Senato, eccetera, eccetera. Ma un nuovo Parlamento, questo è un Parlamento eletto sulla base di una legge incostituzionale, nonostante il Porcellum, il PD aveva 148 deputati in più di quanti ne doveva avere a norma di Costituzione, ha avuto l'arroganza di voler riformare, cambiare le regole democratiche, ha fallito e noi dovremmo ridare a questa maggioranza incostituzionale, che ha fallito su tutti i fronti come mai era capitato nella storia repubblicana, lo scettro, il potere, il comando, il timone del comando. No, però mi scusi, allora seguo il filo del suo ragionamento, cioè lei sta dicendo dobbiamo aspettare che sia la Corte Costituzionale a intervenire, andare a votare con quello che sarà l'esito di quella riforma e poi il successivo Parlamento dovrà fare, a questo punto sì, legittimato, una nuova legge elettorale. Parliamo di tempi lunghissimi. No, allora, se la Corte si esprimerà presumibilmente nei primi mesi del 2017 e si deve andare a votare immediatamente con la legge che uscirà, a votare immediatamente. Io le dico perché, ma la motivazione, scusa, con la legge che decide la Corte, allora? Che dice? Con quale legge? Con quella che decide la Corte Costituzionale? Con quella che l'ha già decisa per il Senato, che si è trasformato nel consultellum, lo farà anche per l'Italico. Però una cosa ho lasciata premessa per me, e mi scuso, ma non è premessa evidentemente per voi. Noi abbiamo cercato in questi 3 anni e mezzo in cui ci hanno obbligato a parlare di cose che non erano importanti per i cittadini, ma solo per la casta, abbiamo cercato di fare delle buone leggi, di migliorare le cose, di cambiare gli ordini del giorno mettendo lotta all'occupazione, alla disoccupazione, alla povertà. Loro hanno voluto fare solo questo, non hanno accettato, a titolo di esempio, tra le 100 cose che abbiamo proposto, l'introduzione ad esempio delle preferenze. Come possiamo noi pensare di sedersi a un tavolo con queste persone che non hanno alcuna credibilità, perché i fatti dicono che sono totalmente inaffidabili? Va bene, noi volete abbiamo una pausa, le chiedo solo un attimo di a parlare di legge elettorale. Io penso proprio che i cittadini abbiano bisogno di ben altro, l'abbiano dimostrato con il voto di ieri. Adesso abbiamo una pausa, le chiedo un attimo di restare ancora con noi, leggiamo però velocemente anche i messaggi, Alessio, dei nostri ascoltatori, 349-238-6666, perché si stanno veramente sbizzarrendo. Ieri sera Brunetta ha fatto capire che vuole la testa di Renzi ma non quella del PD e ha fatto il nome di Padoan. Qualcuno scrive, se ritiene questa legge incostituzionale Toninelli perché per il governo, perché non lo è anche per la sua poltrona. E poi ancora, no a un governo tecnico o a un governo istituzionale, dicono ancora i nostri ascoltatori. E poi c'è chi aggiunge, tocca al PD tentare di fare una legge elettorale finalmente democratica. Insomma, al voto subito, al voto con la legge che deciderà la Corte Costituzionale, un governo tecnico, quali possono essere gli scenari? Abbiamo una piccola pausa, ma continuiamo a parlarne, perché questi naturalmente sono gli scenari che si profilano nelle prossime ore e sui quali a questo punto bisogna confrontarsi. Buongiorno da Maurizio Melis. Nonostante le dimissioni dell'attuale governo, la prossima legge di stabilità è destinata a vedere il varo di Casa Italia, cioè per la prima volta da anni di un piano pluriennale volto a incentivare la riqualificazione di un patrimonio immobiliare in ampia parte obsoleto e di cattiva qualità dal punto di vista sia dell'efficienza energetica che della sicurezza sismica. Questa sera allora inizieremo un percorso con il quale a settimane alterne e fino a tutto gennaio faremo il punto confronto su costi e benefici delle principali tecnologie per la riqualificazione energetica, sulla possibilità di integrare riqualificazione energetica e sismica e più in generale sulle opportunità e i limiti che secondo l'opinione di esperti il piano ha nella bozza attuale. Ed è proprio dalla fotografia del progetto Casa Italia che partiremo stasera. Appuntamento con Smart City alle 20.50 qui su Radio 24. Buona giornata. Questo voto consegna ai leader del fronte del no oneri e onori, insieme alla grande responsabilità di cominciare dalla proposta, credo innanzitutto dalla proposta delle regole, della legge elettorale. Tocca a chi ha vinto, infatti, avanzare per primo proposte serie, coerenti e credibili. E così Matteo Renzi in qualche modo dopo l'esito del voto ripassa la palla nel campo avversario. Si ricomincia oggi in attesa che il premier salga al colle. C'è da definire chi guiderà il governo nei prossimi mesi, ma anche già prima, nelle prossime settimane, con scadenze importanti. E poi cosa succederà? Con quale legge si andrà a votare, se si andrà a votare. Ripartiamo ancora una volta da qui. Non avevamo già votato con un referendum contro il proporzionale? Tra l'altro sollecita un nostro ascoltatore con un messaggio al 349-238-6666. Alessio, abbiamo già un altro ospite con sì, cui certo. Ripartire. È con noi Gianfranco Pasquino, buongiorno. Buongiorno a voi. Politologo, naturalmente lo conoscete, è stato anche ex senatore, all'epoca credo ci fossero i progressisti ancora quando fu lei. Sinistra indipendente, la prima fase. Senta Pasquino, ricordiamo anche il numero verde però per gli ascoltatori, 800 24 00 24, se volete intervenire ci sarà spazio sicuramente anche per le vostre telefonate. Al di là delle analisi su questo voto, i flussi elettorali, che sono un po' anche una sua materia da questo punto di vista, è interessante, l'abbiamo già notato, la grossa percentuale di votanti contro la riforma tra i giovani, giovanissimi, quindi c'è sicuramente una frattura anche da questo punto di vista. Però voglio farle subito una domanda specifica che riguarda Romano Prodi, perché lui, l'ex presidente del Consiglio, fondatore dell'Ulivo, naturalmente, pochi giorni prima del voto ha fatto questo endorsement per il sì, e naturalmente sappiamo com'è andata a finire. Possiamo dire che con questo referendum è un po' anche la fine forse di Prodi, che viene considerato riserva dalla Repubblica o una riserva soprattutto nell'ambito del centro-sinistra, non è stato in grado di avere un peso in questo caso, che alcuni invece si aspettavano forse. Ma io credo che gli endorsement di nessuno, gli endorsement singoli, facciano una differenza quando si va ad una percentuale di votanti così elevata. Prodi doveva fare campagna elettorale se voleva fare una differenza, mi pare peraltro che non abbia particolare credibilità nel campo delle riforme istituzionali e quindi credo che poteva fare a meno di dire che avrebbe votato sì, e dicendolo poi con quella motivazione per una riforma che però manca di profondità e chiarezza e dunque doveva essere buttata. Il resto francamente non è particolarmente interessante. Prodi è il passato e forse per qualcuno è anche un passato criticabile. Senta, durante questa campagna elettorale che Prodi non ha fatto ma lei invece l'ha fatta, a un certo punto Renzi si è rifiutato di partecipare a un dibattito con lei, no? Una scelta che forse col senno di poi non gli ha portato fortuna, non so quanto possa essere stata determinante, però è accaduto anche questo, vero? No. Non è stato determinante, diciamo così, è stato spiacevole, però non determinante. E tutto sommato credo che avremmo potuto fare un dibattito interessante, anche se forse sui punti precisi ci sarebbero state moltissime differenze d'opinione, ma di solito dalle differenze d'opinione sia l'uno che l'altro dei dibattenti imparano qualche cosa. Peccato. Senta, io voglio essere provocatoria. Renzi, in fin dei conti, era un po' contro tutti. Lui ha parlato di accozzaglia, ma insomma, diciamo che la compagine del no era molto ampia. 40%, ha perso davvero? Ha perso parecchio. Prima non era vero che era solo contro tutti, perché credo che la Boschi sia stata una Madonna in processione in molte zone dell'Italia. per di più il suo partito, e se guardate le varie dichiarazioni, qualche volta anche tracotanti da parte di componenti visibili del suo partito, a cominciare ovviamente dai due vice segretari che si sono molto spesi e che a questo punto dovrebbero anche prendere atto che qualcosa è andato male, magari offrire anche le loro dimissioni in quanto vice segretari del partito. C'erano alcuni che imperversavano in televisione. Sono appena stato con la senatrice Fedeli, ho fatto dei dibattiti con Emanuele Fiano, anche loro forse dovrebbero chiedersi perché le cose non sono andate come le raccontavano loro. Dopodiché quel 40% contiene naturalmente anche i voti che vengono dal centro, dall'area popolare, cioè Angelino Alfano l'aveva detto, e Casini si è anche speso, Pera aveva fatto campagna per tutto questo, e quindi non sono tutti voti di Renzi, sono molti voti del PD, ovviamente, giustamente, come dimostrano le due regioni grosse, Toscana e Emilia-Romagna, magari loro sono un po' sbiadite, soprattutto la seconda, però non sono tutti i voti suoi, e comunque quando la scelta è sì e no, è difficile intestarsi una sconfitta. Però guardando invece sull'altro campo, il 60% di no, chi è il vero vincitore? Potrebbe essere una domanda tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, chi invece come lei da sinistra si è schierato contro questo referendum, oppure anche semplicemente la domanda più diretta è questa: 60% diviso 3 è un voto da spartire. In termini, diciamo, di futuri scenari elettorali, è una vittoria da spartire che non so quanto possa entusiasmare, ecco, chi punta comunque ad avere una maggioranza relativa. Che ne pensa? Io non so chi punta ad avere una maggioranza relativa, spero che lo facciano tutti i partiti, cioè che non corrano soltanto per partecipare, e credo che, qui lo devo dire con un po' di retorica, che ha vinto una certa idea di Costituzione. Vale a dire che le costituzioni debbono essere cambiate soltanto in momenti eccezionali, avendo una visione di che cosa si vuole ottenere e non cercando soltanto di avere un successo personale per legittimarsi in qualche modo, in qualche carica, in determinati momenti storici. Dopodiché gli apporti sono stati diversi, ma credo che la grande maggioranza di coloro che hanno votato no alle riforme. E certamente non conoscevano nei dettagli le riforme, però avevano letto abbastanza, non volevano forse privarsi della possibilità di eleggere il Senato, non volevano essere costretti a raccogliere molte più firme di quelle che sono necessarie oggi per un referendum abrogativo, non volevano dare troppo potere allo Stato nei confronti delle regioni e non volevano in qualche modo, come si dice, di risulta rafforzare un capo del governo, il quale ha fatto una campagna ossessiva, quindi c'è anche una componente contro il capo del governo, però nel no c'è il rifiuto di riforme malfatte, pasticciate, confuse, destinate a produrre conflitti. Senta, un'ultima cosa che le vogliamo chiedere è questa, Pasquino, tra i risultati evidenti del no c'è avere resuscitato una legge elettorale, il consultellum per il Senato, che altrimenti sarebbe stato di fatto superato dalla riforma, e adesso secondo lei si può andare a votare subito con queste due leggi elettorali diverse, una alla Camera e una al Senato, o è necessario un passaggio? Secondo me non abbiamo nessuna legge elettorale in questo momento. L'Italicum deve essere esaminato dalla Corte Costituzionale, che certamente imporrà alcuni cambiamenti. Il consultellum secondo me non è immediatamente applicabile. Io mi auguro che sia al Senato che alla Camera ci siano persone che sanno che bisogna fare la legge elettorale. Credo che questo possa essere fatto, non c'è nessuna fretta, perché si voterà nel 2018, se qualcuno si affretta allora, come dire, raccoglierà i mali frutti della sua fretta. Dobbiamo arrivarci al 2018. Sì, ci arriveremo. Lei in buona salute? Assolutamente. E allora auguri. Grazie Pasquino, grazie Gianfranco. A Gianfranco Pasquino, ti aggiorno anche sui nostri ascoltatori, c'è già chi propone un Nazareno bis, ci credono poco a un'ipotesi tecnica. Beh, è quello che vorrebbe sicuramente Silvio Berlusconi, che non punta ad elezioni subito, ma punta a un governo di larghe intese che possa fare proprio questo. Allora andiamo a farci aggiornare dalla nostra Alessandra Scapisi, che è a Roma e che sta anche seguendo passo passo quelle che sono i comunicati ufficiali. Ad ora cosa siamo, Alessandra? Sempre all'appuntamento del pomeriggio, perché Renzi si è dimesso in TV, ma le dimissioni non si danno in TV. sì, ovviamente mancano ancora i passaggi formali. Alle 16.30 c'è il Consiglio dei Ministri, ancora non fissato ufficialmente, ma questo dovrebbe essere l'orario. Alle 17 invece Renzi salirà al Colle, appunto per rimettere formalmente l'incarico nelle mani del Capo dello Stato. Questo Consiglio dei Ministri naturalmente è anche il motivo per il quale evidentemente, ma non solo, perché c'è un risvolto politico più importante, il ministro dell'economia Padoan non partecipa oggi all'Eurogruppo, ha annullato il viaggio previsto a Bruxelles. Questo è un segnale politico, anche perché Padoan è tra i nomi che circolano. Quali sono gli altri nomi, Alessandra, ti chiedo, così da cronista, che circolano per quanto riguarda un possibile passaggio di un governo di transizione, di scopo, un governo elettorale, un governo tecnico che potrebbe essere all'orizzonte? Ecco, allora, sicuramente il nome che circola più insistentemente è quello appunto del ministro dell'economia Padoan, che appunto ha cancellato pure gli impegni a Bruxelles, e questa potrebbe essere anche un'importante indicazione del fatto che si pensi a lui come possibile guida di un nuovo governo. Ipotesi Padoan per un governo tecnico, magari anche fino alla fine della legislatura, è un nome che serve soprattutto a blindare la legge di stabilità, rassicurare i mercati. Altro nome che circola è quello di Pietro Grasso, del Presidente del Senato, che vanta un buon rapporto con le opposizioni, per un governo cosiddetto istituzionale o di scopo che possa approvare la legge elettorale, che quindi potrebbe portare il Paese a elezioni anticipate nel 2017. E ancora, poi sempre dentro il PD, perché è lì, da lì che partirà a Mattarella, perché il PD, ricordiamo che ha la maggioranza ancora. Alla Camera almeno, certo. La maggioranza almeno alla Camera, circola il nome di Dario Franceschini, Graziano Del Rio, Paolo Gentiloni, quest'ultimo però appunto troppo vicino a Renzi, quindi insomma poco amato dal resto del partito. Qualcuno parla, addirittura qualcuno evoca Romano Prodi, un nome che appunto è stato invocato da una parte. Che però insomma si è schierato nettamente al referendum, quindi... Sì, certo, infatti queste sono ipotesi davvero poco probabili, e si parla addirittura anche, insomma, questi sono nomi che vengono tirati fuori in realtà da ogni via governo, insomma. Cioè, i nomi di Giuliano Amato, insomma, i nomi non mancano, i nomi non mancano, staremo a vedere. Certo è, grazie Alessandra, adesso abbiamo le informazioni sul traffico, dico solo una cosa, certo è che l'ha detto Renzi ieri sera e sembrava quasi un'indicazione programmatica di quello che potrebbe succedere e di come forse Renzi vivrà questo anno che ha di fronte, che c'è di fronte a lui e di fronte a noi tutti. Il 2017, ha detto, è un anno nel quale abbiamo a Roma l'appuntamento per i 60 anni dell'Unione Europea, a Taormina a maggio il G7, è ospitato dall'Italia, e poi a novembre l'Italia che entra nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La domanda è: può un governo di scopo, un governo tecnico, un governo provvisorio portare avanti un'agenda di questo tipo? Anche perché ricordiamoci, in primavera al voto va anche la Francia, in autunno va anche la Germania, insomma un 2017 denso di appuntamenti che non si annuncia facile. Il traffico, ripartiamo ancora. Oggi ha perso quella parte di politica italiana che crede che sia populismo parlare di reddito di cittadinanza, parlare di abolizione vera di Equitalia, crede che sia populismo parlare di aiuti alle piccole e medie imprese, di banca pubblica e di rivedere i parametri europei e sulla moneta unica. Così Di Maio, riprendiamo ancora per cercare di capire cosa succede dopo questo voto. Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. D'accordo con Di Maio, chi ha vinto? Beh, ha vinto il no, mi sembra evidente. Vabbè. Ha perso Renzi, che ha commesso l'errore fatale, una serie di errori fatali. Ma chi ha vinto invece? Errori gravi, ma l'errore fatale è stato quello di personalizzare il referendum, per cui si è aggiunta anche questa reazione negativa, un po' di pancia, un po', non tutta di pancia, contro il malgoverno, contro il fatto che non ha risolto i problemi. Ma invece chi ha vinto? Ha vinto il no, cioè ha vinto questo mondo variegato che non è un fronte unico, questa è la questione vera, no? Cioè, che cosa succede adesso? Io sono interessato a capire che cosa succede adesso. Mi sta bene che si sia votato no, perché questa riforma avrebbe ridotto di molto i poteri delle regioni, soprattutto delle regioni virtuose come la Lombardia, e noi rilanceremo in primavera con il nostro vero referendum per l'autonomia della Lombardia e del Veneto, ovviamente. Adesso bisogna capire che cosa succede. Preso atto di questo risultato positivo, che cosa succede adesso, da domani, da oggi, da stasera, da oggi, da Mattarella oggi. Cosa fa? Diciamo, non sono problemi direttamente suoi, Maroni, perché lei ha già i problemi della Lombardia, questi sono problemi del Parlamento italiano, che giustamente adesso ha il boccino in mano, l'abbiamo detto più volte in queste dirette, in questi speciali, è ovvio, sì, che sia così. Senta, le voglio chiedere però così una cosa da esponente di primo piano della Lega: l'onore delle armi a Renzi si può concedere, visto sì. anche il modo in cui si è dimesso? Sì, io glielo concedo, non poteva fare altro certamente, però l'onore delle armi va sempre concesso, perché poteva anche dire: ma no, sto qui, chi se ne frega, non era con me, contro di me il referendum, e invece ha preso atto. Adesso non so cosa succederà dentro il Partito Democratico, se rimarrà presidente, se rimarrà segretario, ma non mi interessa. Quello che posso dire, anche sulla base dell'esperienza mia di lungo corso da parlamentare e da ex ministro, e come hanno reagito i mercati, non è che adesso succede il finimondo, no? Sono cose che succedono. Noi, dopo questo speciale, così cominciamo anche a dirlo, avremo anche la nostra Deborah Rosciani, no, per il momento sta tenendo, questo è ma vero. Infatti, ma è così, è una crisi. Ma io vedo sempre le crisi come un'opportunità, da ogni crisi può nascere un'opportunità, e l'opportunità vera per la democrazia italiana è che adesso ci sia un governo finalmente eletto dal popolo e non nominato da qualcuno, un presidente del consiglio eletto. Quindi dobbiamo andare al voto però. Sì, esatto, sì. Andare al voto però, Maroni, come? Perché secondo lei si può andare al voto così, con queste due leggi elettorali un po' traballanti, diverse alla Camera e al Senato? No, secondo me bisogna mettere mano alla legge elettorale, e non ci vogliono 12 mesi per farlo. Se c'è l'accordo. Quale sarebbe la proposta della Lega, però? Ah, vabbè, queste ci sono tante proposte, non entro nel merito. Dico solo il però qualcuno dovrà entrare nel merito, perché legge mi sembra che ci sia un gioco a nascondino da parte di tutte le forze politiche, non del vero, su questo. Io ne ho provate tante di leggi elettorali. Il Mattarellum, la prima, che era. E poi il proporzionale puro nel 92, poi il Mattarellum con i collegi, quella è la legge a cui sono affezionato, i collegi uninominali, perché i candidati dei vari schieramenti sono in competizione tra di loro. Il proporzionale con preferenze mette in competizione all'interno della stessa lista e dello stesso partito. Quindi, però questa è la mia preferenza personale. Sì, naturalmente ci sarà una discussione l'argomento. In Parlamento. Bisogna, secondo me, sì, entro fine gennaio si può fare la legge elettorale, dopodiché primaria nel centrodestra e poi subito al voto. Io la vedo così. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Beh, allora, bisogna dire che uno dei meriti di Renzi, che è uscito pure sconfitto naturalmente e nettamente da questo referendum, era quello però di avere dato una linea, un'idea chiara della legge elettorale e di che assetto istituzionale immaginava. Le opposizioni che oggi vincono il risultato non ce la danno, hanno ora idee diverse o non hanno un'idea. Alessio, abbiamo promesso ai nostri ascoltatori, velocissimo, Alessandro dalla provincia di Pisa. Eccolo. Alessandro dalla provincia di Pisa. Allora, che ne pensa? Pronto? Sì. Sì, senta, no, io volevo dire solamente questo. Volevo fare un appello a Renzi, perché credo che quel 40% che abbiamo avuto sia un importante contenuto da parte di moltissime persone, visto che quindi lei poi è solidale con lei. Poi un pisano che tende una mano a un fiorentino va sempre bene. Siamo sempre qui. Al voto, che sia il momento in cui subito al voto, fare lui però la resa dei conti con i suoi, specialmente i suoi di partito, che gli sono andati tutti contro. Angelo da Milano invece che ne pensa? Sì, buongiorno. E dunque, mi dispiace sentire che anche Maroni si dimentica che circa, dico, 10 anni fa, ma purtroppo sulla data sono un po' incerto, c'è stato un referendum in Italia in cui si è chiesto alla gente se si voleva mantenere il proporzionale oppure se si voleva andare al maggioritario. C'è stato un plebiscito, io adesso le percentuali non le ricordo. Un plebiscito ma per il maggioritario, andremo a votare col proporzionale. Può essere, Angelo da Milano. Grazie, giusto per dare ovviamente spazio anche a voi che ci state seguendo da questa mattina, per la verità da ieri sera, quando si sono chiuse le urne, abbiamo cominciato a raccontarvi cosa succede. Alessio, continueremo a farlo perché ci sono i mercati, tra poco c'è Deborah Rosciani, poi una Radio lunga giornata che ci aspetta. Radio 24 non si ferma mai. Un ringraziamento anche ad Alessandro Marcotulli. Giulia, Carmela Lauricella in regia. Noi ci fermiamo qua, la programmazione di Radio 24 va avanti. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao, buona giornata da Alessio Maurizi e da Anna Migliorati. Bye.